Buonasera, buonasera, buon mi illumino di meno, buona festa nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. 20 anni fa abbiamo cominciato, abbiamo chiesto di fare un gesto simbolico e abbiamo dimostrato che ognuno può fare qualcosa. Buonasera Zambotti, elegante in modo preoccupante. Buonasera Cirri, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, e anche la vostra festa. Sono 20 anni e il 16 febbraio lo facciamo insieme per ricordare quella ratifica dei protocolli di Kyoto, quando molti paesi si misero insieme per dire dobbiamo fare qualcosa per smetterla di rovinare questo pianeta. E allora noi oggi in qualche modo festeggiamo quell'unione e quell'accordo, e lo facciamo in diretta qui su Radio 2. E continuiamo a farlo perché facciamo un gesto simbolico, spegnere qualcosa, e vi raccontiamo che cosa c'è dietro. Di nuovo, buon mi illumino di meno. Seguiteci, abbiamo molte cose da raccontarvi, restate con noi. Caterpillar. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 9. Applauso, applauso, applauso. Marta Maroglia, attivista di Estinction Rebellion, ha letto l'articolo 9 della Costituzione, poi le chiediamo alcune cose. Interesse, l'interesse delle future generazioni, cara Zambotti, è cambiata la Carta Costituzionale. Esattamente, la tutela dell'ambiente entra nel 2022 dentro la Carta Costituzionale. Allora noi qui in diretta per mi illumino di meno dal TV2 di Milano le abbiamo invitate qui, le future generazioni. Certo non sono tutte, Cirri, però quello che potevamo convocare, fatevi un applauso, future generazioni, perché siete voi che 5 anni fa, quando iniziarono gli scioperi per il clima, avete un po' cominciato a dire insomma qui bisogna darsi una regolata nei nostri modi di vivere. Allora piccolo appello, posso fare l'appello? Faccia l'appello. Mi piace farlo. C'è gli studenti del Politecnico di Milano, eccoli qua, e li abbiamo scelti possibilmente internazionali, cioè persone che arrivano da altri paesi a studiare in Italia e che quindi ci restituiscono una visione diversa, perché questa edizione è No Borders, ovvero facciamo cose insieme agli altri fuori dai confini. La Statale di Milano e poi il Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico dell'Università di Pisa, la Bicocca di Milano, la Bocconi, pure dentro la Bocconi si parla. Abbiamo dato molto alla Bocconi. Esattamente, e poi chi fa cose nelle scuole, Invento Lab, benvenuti. E cosa ho dimenticato? Il Liceo Statale Alessandro Volta, c'è qualcuno del Volta, ragazzi buonasera, benvenuti. E poi gli studenti di Intercultura, quelli che arrivano per un anno a studiare qui in Italia. Io partirei da loro. Jacob, sei tu arrivi, da dove arrivi Jacob? Inghilterra. Che cosa ti riporterai a casa dall'Italia? Una piccola cosa di sostenibilità che hai imparato qui in Italia? In generale, quando si usa il bollettore, ovviamente in Inghilterra usiamo il bollettore ogni giorno, però per risparmiare l'acqua si deve mettere solo il minimo dell'acqua dentro. Ecco, questo è già l'indicazione del tè. Grazie mille. E poi da Barcellona c'è Martina. Martina, buonasera. Cosa impariamo da Barcellona noi invece? Allora, una cosa che mi piace da Barcellona sono queste tipo suparillas, le chiamiamo, che è tipo quando hai 4 edifici, le 2 strade che hai in centro. Da qualche anno fa abbiamo iniziato a chiuderle per far più strade peatonali, a ridurre il consumo della macchina in città e anche per poter portare più zone verdi. Penso che è una buona prassi da seguire. Grazie mille alla Spagna. E poi andiamo in Brasile. Tu sei Felipe, giusto? Sì. Felipe, che cosa possiamo imparare dal Brasile o che cosa hai imparato tu in Italia? Ho imparato qua in Italia la raccolta differenziata. Normalmente in Brasile non facciamo, e qua in Italia tutte le famiglie. Sì, è una cosa che dobbiamo imparare per forza, già che se non facciamo la raccolta differenziata il mezzo ambiente e avrà problemi gravi. Decisamente. Poi la Francia, Saint-Michel, che non è il Mont, giusto? No, è un paesino. Non è il Mont. No, niente. In Francia, in quest'estate, c'è stata questa campagna pubblica sulla sobrietà energetica, e che secondo me è molto importante, anche più probabilmente del sviluppo tecnologico, tipo sviluppare le tecnologie più pulite è importante, però la sobrietà conta molto, e quindi questa questione qua diventa molto più importante in Francia. Grazie mille. Giappone, giusto? Sì. Giappone, prego. In Giappone abbiamo cominciato una lotta allo spreco alimentare. Abbiamo costruire delle taverne gratis o a basso costo per i bambini, salvando i prodotti scartati. Questo prodotto taverne sono le mense. Sì, la mensa. Ok, sì, perfetto. Sì. Quindi ai bambini si danno i prodotti in scadenza da mangiare. Beh, insomma, sono giovani, esatto, un modo di riempire. Non è scadenza. Okay. Sì, sì, c'è la cooperazione tra i produttori, anche tra le taverne. Ma questo non è scadenza. Non è scadenza. Perfetto. E chiuderei qui con la Repubblica Dominicana, giusto? Sì. Io mi porto alla raccolta differenziata. Questo è un grande successo della raccolta differenziata. Perché è un fatto che ha impattato in me, perché è più facile come per gli altri, e come si dice, come per organizzare tutto, da noi butti tutto nel stesso posto e c'è più lavoro. Abbiamo la prossima ministra della Repubblica Dominicana alla gestione dei rifiuti. Grazie alle future generazioni, torneremo da voi. Marta, senti, raccontaci una cosa. Tu sei andata settimana scorsa insieme ad altri sotto la regione Lombardia, qui a Milano, tu studi a Milano, e avevate uno striscione, avete cercato di disrotolarlo. Cosa c'era scritto nello striscione? Olimpiadi senza neve, una cagata pazzesca. È una citazione fantoziana, lo dico. Senti, non siete riusciti ad aprirlo perché è arrivata la polizia. Esatto, la nostra era una protesta non violenta, pacifica. Il nostro unico intento era aprire questo striscione per lanciare un messaggio contro le Olimpiadi, e questo non ci è stato reso possibile, perché a tempo di arrivare, provare ad aprire questo striscione, che è arrivata la polizia, i carabinieri, la Digos, a impedirci di fare questa azione. Una certa efficienza delle forze dell'ordine che tu non hai apprezzato. Stanno bloccando un'azione totalmente democratica, non vedo quale sia il problema di aprire uno striscione per lanciare un messaggio. E il fatto ancora più grave penso sia che sono arrivate 8 multe per uno striscione che non è neanche stato appeso. Noi abbiamo parlato di quanto, Marta? Multe di 100 euro per ogni attivista, che sono comunque una spesa molto grande per dei ragazzi e delle ragazze che stanno studiando, ma soprattutto sono multe illegittime. Noi abbiamo parlato con degli avvocati che ci hanno detto che sono illegittime, poiché il fatto non sussiste, lo striscione non è stato aperto, e noi abbiamo ricevuto le multe per affissione abusiva. Ed è per questo motivo che martedì è stata fatta anche un'interrogazione parlamentare. Un senatore ha portato un'interrogazione perché si stava chiedendo come mai ci fossero arrivate queste multe assolutamente ingiuste. Non esiste il reato di tentata affissione abusiva. Esatto. Senti, Marta, poi ci torniamo. Domanda veramente molto semplice. Facciamo solo una piccolissima pausa che ci è richiesta, e poi Marta resta con noi. Siamo già in ritardo. Siamo caratteristici per essere in ritardo. Marta, però siamo sempre in ritardo. Resta con noi, Marta. Certo. Ci fermiamo un attimo per tornare. Caterpillar 18:17, Caterpillar per Millumino di meno, in onda anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Siamo qua con Marta, che ci stava raccontando che ha preso una multa di 100 euro per uno striscione contro l'Olimpiade. La domanda, Marta, tu fai l'attivista, perché lo fai? Lo faccio perché siamo in una situazione gravissima di emergenza climatica, perché il 70% della Sicilia è a rischio di desertificazione, è stata dichiarata la calamità naturale, perché ci sono eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e sempre più forti. E quindi in questa situazione io ho paura, ho deciso di attivarmi insieme al movimento Extinction Rebellion, di fare delle azioni dirette, non violente, per chiedere al governo tre cose. di dire immediatamente la verità sulla situazione climatica in cui ci troviamo, di agire immediatamente per azzerare le emissioni di gas serra e di costituire le assemblee dei cittadini, che sono un modo per coinvolgere cittadini e cittadini nella soluzione del problema climatico. Marta la sa e la sa anche velocemente, a differenza di noi. Marta, rimani con noi, ti mettiamo... Tra le future generazioni, diciamo, è esatto, decisamente poi torni, torni perché spazio. Ha fatto un'altra azione sotto Regione Lombardia, ma ne parliamo dopo. E invece, Marta. C'è chi grazie tutto questo lo fa anche con la musica. Loro sono i Satoyama, ci accompagneranno in questo ventennale di Millumino di Meno. Hanno fatto cose bellissime che ci racconteranno tutto un progetto musicale legato proprio al racconto della natura, una transiberiana in Russia, insomma, molte cose. Eccoli qui, live, i Satoyama. Applauso, grazie. Satoyama live per i 20 anni di Millumino di Meno. Vogliamo interrogarli, ma non in senso poliziesco, chiedere qualcosa, c'è un portavoce, lo sono molto democratici. Luca Benedetto, il portavoce. Eccoci. Luca, la Transiberiana è la cosa che più ci ha colpito, sì. Il progetto Build a Forest, perché noi qui a Caterpillar con Millumino di Meno abbiamo chiesto molte cose agli ascoltatori, anche di piantare alberi, e voi in qualche modo lo avete fatto e scegliete sempre il treno per spostarvi nei vostri tour. Esatto, sì, l'idea della Transiberiana è nata in modo assolutamente naif. Una nostra amica cinese, un artista, ci aveva invitato a Shanghai ad andare a suonare. Ah, noi eravamo molto contenti, però abbiamo detto: se noi dall'Italia prendiamo un aereo e andiamo a Shanghai, cosa lasciamo? Niente. Allora pensiamo, ho detto: cerchiamo un modo meno impattante per andare. Allora stiamo tornando da un tour in Europa. E in macchina esce questa idea dicendo: ma andiamo con una nostra macchina e attacchiamo un carretto dietro piantando degli alberi a ogni comodo, effettivamente comodo, certo. Però abbiamo chiamato la nostra amica biologa e ha detto: ragazzi, con la macchina che avete questa cosa inquinerà tantissimo. Allora abbiamo detto: vabbè, andiamoci in treno. Poi non siamo arrivati a Shanghai per la Transiberiana, ma decidere di fare un tour, che i tour di solito sono molto frenetici, attraverso l'uso del treno, e sia una scelta etica, ma anche decidere di fare un viaggio lento, lentamente assaporandosi questi paesaggi. Abbiamo fatto 4 giorni tutti di fila su questo treno che piano piano cambiava paesaggi, è stato speciale veramente. E poi abbiamo deciso di autotassarci grazie a questo bando che abbiamo vinto, e abbiamo, diciamo, reso il tour a emissioni CO2 zero. È stato un gesto, un piccolo... No, ma qui si parla, qui si fa una campagna sui piccoli gesti, esatto, che poi cambiano, sì. Speriamo le grandi cose. Loro sono riusciti veramente a fare musica cantando e suonando in qualche modo il rispetto per la biodiversità. Non è facile ci rifare... Non è facile, assolutamente. E invece leggeva prima Marta la Costituzione, che è cambiata da un paio d'anni, e c'è stato questo grande cambiamento perché l'ambiente, l'interesse delle future generazioni è entrato nella Carta Costituzionale. Allora abbiamo chiesto a qualcuno che ne sa, un giudice della Corte Costituzionale, di spiegarci brevemente il significato di questo cambiamento, e già che c'era abbiamo chiesto anche un'adesione a Millumino di Meno, e cortesemente la giudice costituzionale Emanuela Navarretta. Anche quest'anno la Corte Costituzionale, insieme alla Presidenza della Repubblica, al Senato, alla Camera dei Deputati e ad altri enti pubblici e privati, ha aderito alla campagna promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, Millumino di Meno. E per questo credo che sia particolarmente importante diffondere, condividere questo messaggio a partire da questo palazzo, dal Palazzo della Consulta, perché qui la Corte Costituzionale ha scritto tante sentenze a difesa dell'ambiente e ha ribadito che quello della tutela ambientale è un impegno di tutti, un impegno globale e transgenerazionale, e per questo hanno rispettati gli obblighi dettati dalla Costituzione e gli obblighi dettati dagli accordi internazionali, a partire da quel protocollo di Kyoto, protocollo aggiuntivo alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 16 febbraio 2005, che in certo senso ha segnato un momento storico, tant'è vero che felicemente la data del 16 febbraio è associata a questa iniziativa, per la quale, a nome anche di tutti i colleghi della Corte Costituzionale, mi complimento con i promotori. Complimenti, complimenti della Corte Costituzionale. È stato Iama, avete uno stacco Corte Costituzionale sotto mano? Lo possono fare? Lo stacco complimentoso. Io l'ho trovato molto costituzionale. Sì, veramente, grazie. Veramente. E allora sì, lo racconteremo, i grandi palazzi istituzionali aderiscono a Mi illumino di meno spegnendo, e lo fa la Corte Costituzionale, lo fa la Corte dei Conti, lo fa il Ministero della Difesa, lo farà il Quirinale con cui ci collegheremo. Ma la questione della tutela del suolo è una delle tante sfaccettature del bisogno, dell'urgenza di fare qualcosa per tutelare il pianeta, e ci sono zone del paese che sono state anche citate che hanno offerto un po' di più ultimamente, una di queste è sicuramente l'Emilia Romagna, e non solo, tutte le zone alluvionate, per cui andiamo lì a farci raccontare un'adesione a Mi illumino di meno. Ebbene sì, è un posto in cui si mette insieme la tematica dell'ambiente con uno specifico territoriale. Siamo a Forlì e c'è gente che si prepara a pedalare, andare in luoghi della città segnati dall'adesione, e dovremo avere collegato con noi l'assessore all'ambiente, appunto, di Forlì, Giuseppe Petetta. L'assessore c'è, buonasera. Sì, buonasera a tutti, un saluto a tutti i ragazzi studio, sono qua. Siamo da Forlì, siamo nella piazza Safi, nella bella piazza di Forlì. La città di Forlì è già da anni che aderisce a questa iniziativa, a questa bella iniziativa, e qui appunto nella piazza abbiamo i lampioni storici che, come segno di solidarietà e come segno di sostegno, dovranno essere spenti alle 19 proprio per questa iniziativa. Intanto, assessore, come sta la città di Forlì? Citavamo chiaramente l'alluvione e insomma, questa è una lunga giornata, voi avete fatto varie cose per Mi illumino di meno. Sì, la città di Forlì è forte, la Romagna è forte, tutti i cittadini dopo quel tragico evento del 19 del 16 di maggio hanno ricominciato e abbiamo tutti quanti una ripresa per poter sui territori essere ancora attivi. Sì, oggi è stata una giornata, è tuttora in questo momento una giornata ricca di eventi, sono una serie di progetti, uno di questi appunto con gli amici della FIAB, la Federazione Italiana appunto Amici della Bicicletta, che ha organizzato una pedalata proprio in questo momento, sono in giro per i territori alluvionati, nei quartieri, nel seminario vescovile, proprio a ricordare e tenere alta l'attenzione di quello che è stato il cambiamento climatico che ha portato appunto quel tragico evento il 16 di maggio. Sono altre iniziative che sono... Prego. No, cioè, quelli della FIAB sono già partiti, l'hanno lasciata lì da solo, ma è rispettoso, sono già andati. Potrebbero arrivare da un momento all'altro a fare un saluto, spero. Ah, se dovrebbero arrivare, perché vanno e ritornano quelli della FIAB, sono fatti così. No, ma sono continui, in giro. Continui, assessore. Ripeto, sono in giro sul territorio proprio anche a portare la loro solidarietà sui quartieri che sono stati particolarmente colpiti. Ma abbiamo avuto anche un'altra serie di iniziative con ragazzi e associazioni che hanno portato in questa giornata dei progetti in giro per la città. Sto parlando di Incibo Civitas, di Livia e dei Fridays for Future, che hanno, appunto dicevo, presentato diversi progetti e stanno in questo momento facendo tavole rotonde e discussioni in alcuni incontri in giro per la città, proprio che trattano lo spreco alimentare, gli approcci circolari e tutto quello che è necessario per approcciarsi su queste risorse. Un'altra bellissima iniziativa a fine della serata sarà appunto gli aperitivi a lume di candela. Abbiamo una serie di esercenti che hanno aderito a questa giornata, a questa festa di Mi illumino di meno, tenendo spento dentro i loro locali tutte le luci, e creeranno l'atmosfera a lume di candela proprio per sensibilizzare tutti quanti in questo tema. Grazie mille assessore, grazie, e salutando Forlì salutiamo le tantissime altre città e comuni che si stanno spegnendo, dove ci sono pedalate, Ravenna, Aosta, ce ne sono moltissime anche al sud, Catania, Palermo, insomma in questi minuti molti stanno pedalando per Mi illumino di meno e camminando, e a loro dedichiamo un minuto di musica dei Satoyama, una musica che, come dire, faccia aderire bene le persone a Mi illumino di meno. Live Satoyama. Raggio Gadget, Mama Earth, sono le 18:33 minuti, benvenuti alla grande festa per Millumino di Meno, 20 anni di Millumino di Meno, giornata nazionale degli stili di vita e del risparmio energetico, gli stili di vita meglio quelli sostenibili. E allora quest'anno, ve lo raccontavamo, la campagna è No Borders. Perché No Borders? Perché lo abbiamo imparato, la tutela del pianeta si fa solo attraverso grandi alleanze anche internazionali, nelle scuole, nelle università, nelle nostre famiglie anche, sono luoghi di difficili alleanze, ma ci proviamo. E allora abbiamo coinvolto, e voi avete coinvolto, ascoltatori e ascoltatrici, centinaia di realtà all'estero. Noi ve ne raccontiamo due, perché sono un po' quella più a nord e quella più a sud. Partiamo dall'Antartide. Abbiamo collegato con noi lo station leader della 20ª campagna invernale del programma nazionale di ricerche in Antartide. Lui è anche dell'Università Insubria ed è il dottor Gabriele Carugati. Buonasera. E poi eccolo lì. Buonasera. Lo vediamo, Carugati, è bellissimo. Che ore sono al Polo Sud? Esattamente la 1:34 di notte. Di domani, domani, Carugati avanti, Carugati. Grazie avanti. Grazie di essere sveglio per noi. E poi alla sua destra, lei non lo sa, Carugati, ma è collegato e appare qui su Radio 2, davvero di fianco, invece al nord. Siamo alle isole Svalbard, lei è la station leader della stazione italiana dirigibile Italia a Ny-Alesund, una delle isole Svalbard, della dottoressa Tessa Viglezio. Buonasera. Tessa, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ci racconta il cambiamento climatico visto e studiato dal nord, dall'isola Svalbard? Certo. Allora, siamo in un periodo che dovrebbe essere freddo, però due o tre giorni fa ha iniziato a piovere e quindi ha piovuto in febbraio nell'Artico, cosa che non è veramente normale per le condizioni che dovrebbero esserci qua. Quindi il cambiamento climatico lo si vede davvero, cioè lo si vive proprio sulla pelle, ecco. Dottoressa Viglezio, non abbiamo chiesto a lei il fuso orario, scusi, perché stiamo facendo una specie di sincronizzazione degli orologi. È notte in Antartide, alle Svalbard, che ore sono? Come in Italia, le 6:36 quasi. L'abbiamo presa male, dottoressa. L'abbiamo presa male. Invece, e niente, torniamo in Antartide. Intanto grazie di questa adesione. Se ci può raccontare, dottor Carugati, dalle vostre parti come si fa anche a tenere una base di ricerca rispettando qualche, diciamo, buon stile di vita sostenibile? Innanzitutto abbiamo un campo solare, abbiamo dei pannelli solari che sopperiscono più o meno il 15% del fabbisogno della base durante ovviamente il periodo estivo, quando il sole è alto nel cielo per 24 ore. E questo è un grande apporto energetico. E poi abbiamo un sistema interno di recupero del calore e del recupero anche dell'acqua. Noi ricicliamo l'85% dell'acqua che utilizziamo. E il sistema che viene utilizzato è lo stesso che c'è sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questi sono, diciamo, i principali. Torniamo al nord. A me piace questo fatto di fare 40.000 chilometri. Dottoressa Viglezio, ci dice, fra le tante ricerche che il CNR fa lì alle Svalbard, una che le piace molto, così ci racconta quella e si inimica a tutti gli altri. Una che mi piace molto, anche se la più faticosa che abbiamo qua, è fare gli snow pits, quindi fare dei buchi nella neve per arrivare a scavare fino a che si arriva in fondo al terreno, e si prelevano varie misure, per esempio la temperatura su ogni strato, la densità della neve, si prelevano dei campioni che poi vengono inviati in Italia per analizzarli e vedere effettivamente cosa c'è nella neve oltre alla neve in sé, quindi gli inquinanti. Ci piace ricordare che alle Svalbard aderisce anche il punto vendita di una Coop. Immaginiamo in Antartide non ci siano punti vendita dei centri commerciali, ma che cosa fate? Poi ci salutiamo al sud e al nord del mondo per Millumino di Meno. Qual è la vostra adesione? Partiamo dall'Antartide, dottor Carugati. Beh, innanzitutto abbiamo una candela che è simbolo proprio. La candela antartica, bellissima. La candela antartica, esatto. Stiamo procedendo nel rinnovo di tutta la parte di illuminazione all'interno della base. Praticamente stiamo cambiando con l'elettricista che è qui con noi, che sarà qui con noi per 13 mesi, tutta l'illuminazione della, interna della base, quindi passare a qualcosa che consuma di meno, che sono lampade LED. La vera difficoltà è quella di portare qua i materiali. E immaginiamo, ci vuole un po' di tempo, ecco. Se viene sta 13 mesi, non è che sta lì a fare un intervento veloce. Adesione, in una parola, alle Svalbard, è riuscita a spegnere qualche luce? È più difficile, però le luci le spegneremo questa sera e non usiamo macchine che funzionano con la benzina, quindi siamo molto contenti di questo. Grazie. Transizione, cambiamento climatico, il sud e il nord mi illumino di meno, siamo commossi, grazie al CNR che ci ha molto aiutato per questa possibilità. Zambotti, come andiamo avanti? Andiamo avanti festeggiando tutti i luoghi fuori dall'Italia che stanno aderendo a Mi Illumino di Meno, da Montreal fino a San Paolo in Brasile, con un brano dei Satoyama live qui a Radio 2. Satoyama live Radio 2. E allora, veramente con grandissimo piacere vi raccontiamo che questa è una campagna nata piccolina, molto cresciuta e che adesso la fa tutta la RAI insieme. E allora è venuta a trovarci, ha appena firmato a Genova un'altra grande campagna nata dalla radio, No Women No Panel, ed è venuta qui con noi la presidente della RAI, Marinella Soldi. Applauso delle future generazioni, grazie. Le future generazioni applaudono. Presidente, buonasera. Ben grazie, benvenuta. Sappiamo che ha avuto. Ciao, ragazzi. Ciao. Sappiamo che è in ritardo, ha forato. Ha forato. È stata media, settimana 20. Hanno messo un chiodo nella. No, perché la vostra direttrice, la Simona Sala, mi tiene molto impegnata. Ero a Genova appunto a firmare il protocollo No Women No Pano con tutti, la regione. Con... Sì, facciamo tutte cose che ha deciso Simona Sala. Sì, lo so che è mi dispiace, no, però ci tenevo tantissimo ad essere qua, davvero. Anche noi ad averla con noi. Quest'anno siamo partiti anche alla sua presenza al Pre Italia a Bari, ospitando le delegazioni delle radio internazionali. Quest'anno un po' l'iniziativa è No Border. Qual è il valore, ce lo spiega lei meglio di noi, di provare ad allargare a livello internazionale questa campagna? È veramente molto importante. Voglio comunque iniziare dicendo buon compleanno e anche congratulazioni. Applauso per la Presidente. Grazie, più intenso, perché i nostri stipendi dipendono. Prego. No, e anche tutto il riconoscimento del Presidente della Repubblica, insomma, meraviglioso. No Borders è importantissimo, ovviamente il tema del clima, il tema di quello che stiamo cercando di fare, in effetti non ha barriere, va oltre, no? Non solo la parte nazionale, ma è proprio globale. E questo riconoscimento è importantissimo, perché da un'idea piccola, e questo è anche importante per i ragazzi, da un'idea piccola poi gli eco e il tempo la fa diventare veramente importante. Facciamo parte dell'EBU, European Broadcasting Union, che è con noi assolutamente e perciò la RAI si è veramente resa protagonista di un movimento importante che è al cuore del servizio pubblico, cioè e aiutare invece... i cittadini. Finisco. Ho interrotto la Presidente, povero me. Avete visto? Sono aiutare potere, i cittadini a capire comunque il potere delle azioni, delle singole azioni. Presidente, non volevo interrompere, è stata Sara Zambotti a dirmi interrompi la Presidente, no, però le volevamo chiedere questo: la RAI e tante cose, anche una grande azienda con tante sedi sparse per l'Italia, anche la RAI è interrogata dal cambiamento di paradigma. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo tanto, stiamo cambiando, non si torna indietro, si vede dall'entusiasmo dei dipendenti, ovunque essi siano, tutte le moltissime sedi hanno aderito, quasi tutte direi. Poi, conveniva aderire, lo dico a chi non l'avesse fatto, conveniva aderire. Vediamo, abbiamo un piano della sostenibilità che verrà approvato la prossima settimana, che sarà al centro di un lavoro degli investimenti dei prossimi anni, dove ci sono proprio degli obiettivi che vogliamo raggiungere, perciò ci sono veramente tante cose, perciò sia l'azienda che poi si interroga nel come anche lavoriamo, no? Gli spazi che usiamo, anche i nostri processi produttivi da un lato, e poi dall'altro quello che, ripeto, riusciamo a trasferire ai cittadini, alle persone, ai giovani, non solo, in termini della loro capacità di avere un impatto su un tema che a volte può sembrare così grande che uno dice ma perché io devo proprio fare, no, spegnere quella lampadina, e invece non è così, è importantissimo, l'azione di ognuno di noi è importante. Possiamo chiederle, Presidente, intanto grazie per pronunciare no borders come noi diciamo facciamo fatica a fare, ma lei così ha un inglese migliore del nostro, e questo è anche il periodo in cui ci si mette molto in gioco personalmente, no? Quindi quando si fanno le campagne si chiedono un po' le persone ma e tu lo fai questo? Lei, qualcuno, noi abbiamo approntato un decalogo che proviamo ogni anno ad aggiornare, si parte dal risparmio dell'acqua, alla mobilità, alle scelte quotidiane di tutti noi. Lei ce n'è una in particolare che segue, un'altra in cui invece vorrebbe, diciamo, dire ma vorrei, piacerebbe fare anche di più su questo. Sicuramente il tema mobilità, io quando posso mi muovo a piedi ovunque, anche in ufficio a Roma vado a piedi, qui a Milano mi muovo a piedi, in bici, uso i mezzi pubblici il più possibile. Mi piacerebbe prendere meno aerei, un pochino il mio lavoro me lo richiede, mi piacerebbe arrivare a un punto in cui ho abbastanza tempo da poter viaggiare sempre in treno anziché prendere gli aerei. Un buon auspicio questo. È un cambio di paradigma. Grazie Presidente. Grazie. Chiederei a voi. Alla band emergente uno stacco presidenziale dal quale potrebbe dipendere il loro futuro musicale. Stato Yama. Cacciamo, no, piaciuto. Bravi, bravissimi. Grazie Satoyama, resti con noi Presidente perché le presentiamo altre due adesioni, perché poi Mi illumino di meno è fatto, lo racconteremo, dalle grandissime istituzioni, il Parlamento Europeo che spegnerà tra pochi minuti e poi tutti i patrocini che vi elencheremo, ma anche dalle singole persone. Allora, questa iniziativa del No Borders, che lei pronuncia meglio, diciamo è stata intrapresa anche dalle persone che hanno detto ma io coinvolgo tutta la mia famiglia, e però le famiglie allargate, quelle un po' contemporanee che vivono su 5 continenti, e quindi c'è un'ascoltatrice torinese che è collegata con noi, che sta per fare un aperitivo online su non so quanti continenti. Buonasera Silvia Falcione. Buonasera Silvia. Buonasera Zambotti, ben ritrovata e buon anniversario, 20 anni. Grazie, grazie Silvia. Di meno. È in grado, sì, di sono farci... 4 i continenti. 4. È in grado di farci lo stato, sì, di famiglia che ha convocato per stasera? Allora sì, lo stato di famiglia sono tutti i figli, i nipoti, mia sorella, i cugini dell'Argentina e le cugine del Sudafrica, Johannesburg. Il problema sono i fusi orari. Ovviamente, e quindi, certo, praticamente mia nipote in Australia sta dormendo, tra poco si sveglia, saranno le 5:30 del mattino e farà una colazione a lume di candela, visto che sarà ancora buio, da Melbourne, e ha già fatto però ieri sera la cena a lume di candela, quindi ne fa 2 al posto di 1. In anticipo. Invece i cugini dell'Argentina saranno le 3:30 del pomeriggio, perché ci siamo dati l'appuntamento alle 7:30, cioè per cena, insomma una cosa che andasse bene per tutti. Loro sono 3:30, quindi diciamo non è neanche ancora la merenda, per cui ci racconteranno cosa faranno la sera, e sono direi più numerosi. Poi c'è mia figlia che è in Polonia col treno della memoria con i suoi studenti, e lei non so se riuscirà in qualche modo a collegarsi. Poi c'è mia nipote invece che è a Londra, che è un'ora prima, quindi saranno le 6:30, e si collega col cellulare perché è appena uscita dal lavoro, quindi sulla metropolitana, sul treno, non ho capito cosa prende, è una cosa un po' complessa insomma. Però tra l'altro grazie, perché è la prima volta che facciamo una cosa del genere, cioè non l'abbiamo mai fatto, non ci abbiamo mai pensato di collegarci tutti insieme, quindi grazie, mi illumino di meno. Riusciamo a vederci tutti insieme, sì, per la prima volta, e ci sono persone che non si sono mai viste, tipo le 2 cugine del Sudafrica e quelli dell'Argentina non si sono mai visti tra di loro. Noi lanciamo Mi illumino di meno unisce le famiglie, che fa sempre Family Edition, esattamente. Silvia, tu hai preparato lì, sì, qualcosa, perché sono moltissime persone che fanno cena a lume di candela, aperitivo a lume di candela, vediamo degli splendidi tulipani forse finti ma belli lo stesso, e tu berrai un tè, perché dietro di te vediamo una teiera, cosa bevi insieme agli altri? No, io non sono ancora riuscita a preparare, perfetto, niente, perché ho perso volontariato fino a mezz'ora fa in dopo scuola, e quindi però vi posso dire che faremo i pizzoccheri della Valtellina. A Torino, in collegamento con Melbourne e con Johannesburg. Silvia, tutto a posto. Grazie, grazie, grazie Silvia Falcione e insieme grazie a Silvia, a voi. Grazie davvero a tutti grazie quelli che stanno facendo aperitivi a lume di candela. Se volete usare l'hashtag Mi illumino di meno mentre sorseggiate, noi vi identifichiamo e ripostiamo. E poi Mi illumino di meno, ovviamente molto legato ai temi dell'energia, ai temi della pace, perché le cose sono complesse ma molto interrelate e quindi vogliamo andare a Mantova, dove sta succedendo qualcosa che tiene insieme Mi illumino di meno e la richiesta di pace. C'è l'assessore all'ambiente del comune di Mantova collegato con noi, Andrea Murari. Andrea, buonasera, buon Mi illumino di meno. Buonasera, buonasera a voi. Cosa sta succedendo? Cosa avete messo insieme a Mantova? Quest'anno la nostra adesione è bellissima perché viene l'organizzatore. È nata un'iniziativa, è nata da un gruppo di associazioni, quindi che hanno coinvolto il comune e che hanno voluto declinare la giornata di Mi illumino di meno rispetto ai temi della pace. Sono venute da me le rappresentanti di Emergency un mesetto fa e mi hanno detto: noi vorremmo aderire a Mi illumino di meno. Io ho detto: anche noi vogliamo aderire a Mi illumino di meno, lo facciamo tutti gli anni. E però vorremmo occuparci della pace. Io ho detto: mi sembra un'idea strepitosa, perché le guerre climatiche sono un tema su cui dobbiamo mettere sempre di più l'attenzione. Non ci sarà pace senza giustizia climatica, non ci sarà pace senza sostenibilità, e questa nuova declinazione ha riportato molto entusiasmo sul territorio. Abbiamo organizzato una passeggiata che è partita dal castello di San Giorgio ed è arrivata alla Rocca di Sparafucile dall'altra parte dei laghi. La Rocca di Sparafucile è stata spenta, abbiamo fatto letture di Gino Strada e altre letture sui temi della pace e adesso siamo qui al buio che si sta concludendo questa bella partecipata manifestazione. Grazie mille Assessore, per noi collegarci con voi è un modo per ricordare che questi temi non sono per niente di nicchia o slegati da quello che sta succedendo, e quindi il buio lo vediamo che si è spenta Mantova, grazie davvero. In questi minuti si sta spegnendo il castello Alerici, si stanno spegnendo con una marcia della terra anche i monumenti a Vergiate in provincia di Varese, a Campo Calabro, dove sarà Campo Calabro, ci ritirei. Bravo, Reggio Temo, Calabria, sì. Tarvisio, Udine e poi Presidente, un po' perché qui ci piace raccontarle quali sono i patrocini dati a questa manifestazione: l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Cultura, Istruzione del Merito, Università e della Ricerca. Se lei Presidente c'ha il timore che si faccia troppo grossi, ce lo fa capire. Non è mai troppo grosso per questi temi, secondo me. Un po' di musica dei Satoyama, sono qui live con noi, e poi altre adesioni qui per Mi illumino di meno. Se state facendo qualcosa, hashtag Mi illumino di meno. Satoyama live per Mi illumino di meno. Grazie per esserci venuti a trovare. Molti stanno utilizzando i social per raccontare quello che stanno facendo con l'hashtag Mi illumino di meno, e quindi il CNR, lo abbiamo raccontato, Dirigibile Italia e Stazione Concordia in Antartide e Artide, questa usando hashtag Mi illumino di meno. E poi se c'è qualche altra, ecco qui la Croce Rossa, caro Ciri, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, e anche loro quindi sono con Mi illumino di meno. Ne hanno titolo, loro dicono: spegniamo i confini per un cambiamento globale, perché questioni della salute, della pace, della giustizia climatica si tengono tutte insieme. Poi c'è la Farnesina, che è il Ministero della difesa, degli esteri, scusi Cirri, con Farnesia aveva ragione, grazie mille, che l'emozione. Fatto il concorso in Rai, prego. Grazie per il quiz a sorpresa. Farnesina Verde aderisce a Mi illumino di meno e ha fatto aderire moltissime ambasciate in giro per il mondo. E ci fermiamo qui un attimo per tornare in diretta su Radio 2. Sono le 19, c'è un applauso, siamo Caterpillar, Mi illumino di meno. Buonasera, benvenuti. bentornati, andiamo avanti in diretta, ci sono le future generazioni, adesso io mi sposto tra il pubblico cercando di seguire la telecamera, un movimento difficilissimo per noi perché, caro Cirri, qui c'è anche l'Università di Pisa. Dov'è l'Università di Pisa? Il professore lei dell'Università di Pisa, qual è il professore dell'Università di l'abbiamo Pisa? L'abbiamo perso perché c'è un master in cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, eccoli lì, li raggiungo cercando di fare questa cosa di non dare buonasera. Che cosa si studia per diventare esperti di cambiamento climatico? Allora, il master in sviluppo sostenibile. Si tiri su, sì. Velocissimo. Il master in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico è un master interdisciplinare, multidisciplinare. La devo fermare qui perché sì. Adesso arriviamo in TV. Costituzione italiana, articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. L'ambiente è entrato in Costituzione, noi diciamo buonasera, siamo un millimetro di meno a Caterpillar Radio 2, anche al pubblico di Rai 2 col quale siamo adesso collegati. Un applauso, in televisione si fanno molti applausi, è un luogo strano la televisione, a me hanno messo del siero lisciante sulla barba dicendo che non si può andare in televisione senza siero lisciante sulla barba. Benvenuti, cioè, abbiamo travasato la radio in televisione e la televisione un po' in radio. Siamo quelli di Caterpillar, organizziamo da 20 anni Mi illumino di meno, siamo partiti chiedendo agli ascoltatori una volta quando ci fu un grande blackout energetico qui bisogna risparmiare un po' di energia, fatelo spegnendo le luci e lo avete fatto da subito voi ascoltatori della radio e della TV e in 20 anni questa cosa è cresciuta talmente tanto da diventare una giornata nazionale da ricevere un importante riconoscimento come la medaglia della Presidenza della Repubblica, l'adesione dei palazzi istituzionali più importanti del paese e anche all'estero e quindi siamo molto felici di raccontare anche su Rai 2 lo sforzo di tutta questa grande comunità e tutto questo si deve anche alle future generazioni. Allora ringraziamo Samuele Virtuani di l'Università Statale di Milano che ci ha letto qui insieme al pubblico che rappresenta le future generazioni come la Costituzione oggi tutela l'ambiente. Applauso delle future generazioni alle future generazioni. Noi adesso andiamo a Parigi perché a Parigi è arrivata facendo un viaggio particolare, un viaggio in bicicletta di più di 2700 chilometri, una ciclista e lo ha fatto per noi. Lascio a lei la presentazione perché mi emoziono, Zambotti. E veramente siamo molto emozionati, è partita da Helsinki, lo ha fatto varie volte per Mi illumino di meno dicendo lo faccio vedere anch'io che con la bicicletta si può essere davvero più felici. Lei ha cambiato la sua vita dedicandola alla bicicletta, prima si occupava di finanza, economia, cose veramente dure e ha pedalato attraversando l'Europa, congiungendo l'Europa, passando dal Parlamento Europeo, mettendo insieme l'Europa da Helsinki a Parigi, collegata davanti alla Sorbona, l'ultraciclista Guinness dei primati, Paola Gianotti. Buonasera Paola e ben arrivata a Parigi. Buonasera, buonasera Sara, buonasera Massimo, grazie. Grazie, vuoi presentarci tu quei due signori che sono con te, anche se qualcuno lo conosciamo? Grazie del Signore. Sono qui con Domenico, il vostro inviato, e con Nicolà della Sorbona, che siamo qua appunto che ci ha aperto la Sorbona e siamo qua grazie anche a un amico, Ettore, che ha permesso questo collegamento e adesso vi faremo vedere come si spegne la luce in Sorbona. Metodi analogici. Paola, stanno scorrendo le immagini della tua pedalata, facciamo un tot di 2500 chilometri percorsi in queste settimane con una piccolissima squadra composta da due persone in camper che ti seguivano, hai pedalato sulla neve, hai pedalato sul ghiaccio, sei caduta, ti sei rialzata, hai raccontato al Parlamento Europeo il meglio della mobilità sostenibile di questo continente, ci racconti il momento in cui ti sembra di aver imparato qualcosa di nuovo che possiamo mettere nel decalogo di Mi illumino di meno? Sicuramente quando ho attraversato i paesi baltici e l'Estonia, che ha messo i mezzi pubblici gratuiti per tutti i cittadini, e poi la rivoluzione di oggi a Parigi, perché devo essere sincera, alcune strade principali di Parigi sono totalmente chiuse al traffico e completamente dedicate alla bicicletta, e siamo a Parigi, quindi in una delle città più grandi al mondo, e c'è questa rivoluzione in corso proprio per la mobilità sostenibile e per la ciclabilità. E poi tante strade a 30 km orari, tante paleoliche in giro per tutta l'Europa che fanno parte della transizione ecologica, e tantissime persone, i ragazzi delle scuole che vanno in bicicletta, e a Vilnius mi hanno raccontato che c'è una bellissima iniziativa con i ragazzi che più utilizzano la bicicletta e più raccolgono punti, e gli vengono dati dei premi per questo. E quindi sono incentivati tantissimi lavoratori che arrivano al lavoro con la bici, le docce negli uffici che permettono alle persone ovviamente di spostarsi in bicicletta, e quindi ho trovato tanta tanta mobilità sostenibile e tanta ciclabilità in questa unione, in questo viaggio che ha unito tutta l'Europa fino a qua a Parigi. Paola, però fra le tante cose belle, tu hai attraversato l'Europa fra gennaio e febbraio, il momento in cui hai pensato: ma chi me l'ha fatto fare? Diciamo che subito 3 ore dopo la partenza, quando ho preso un bello scivolone sul ghiaccio, perché come vedete dalle immagini di ghiaccio ne ho trovato veramente tanto in questi 2500 chilometri, e lì ho pensato: ma perché ho dato retta a Sara Massimo? E poi c'era un valore molto più grande, quindi ho pedalato contro vento. Ogni tanto mi sono sentita un po' una paleolica in questo lungo viaggio, perché avevo ovviamente sempre il vento contro, ma c'era un bellissimo messaggio, e il messaggio di Mi Illumino di Meno, del risparmio energetico e della stile di vita sostenibili, perché se ognuno di noi fa qualcosa il mondo cambia, e può solo cambiare in meglio. Grazie Paolo. E poi di fianco a te la grande famiglia degli ascoltatori di Caterpillar all'estero, i corrispondenti. Cosa saremmo senza i nostri corrispondenti all'estero? Domenico Viscardi è il nostro ambasciatore a Parigi. Oggi siete stati dall'ambasciatrice, quella ufficiale che vi ha ricevuto. Siamo lì, Domenico Viscardi, grazie mille, perché abbiamo molti studenti universitari in studio, ma la prima università di Parigi aderisce a Mi Illumino di Meno, la Sorbona. E chi è con te e che cosa sta succedendo, Domenico Viscardi, mentre vediamo anche in collegamento il Quirinale? Allora, vi passo subito Nicolas Conry, intanto, che è il vicepresidente incaricato del patrimonio immobiliare dell'Università Parigi 1 Panthéon Sorbonne, per un saluto, e poi vi racconto tutto. Oui, bonsoir, Mi Illumino di Meno. Bonsoir. Grazie. Bonsoir, prego Domenico, in una battuta cosa fa la Sorbona? Vedo che il Quirinale bussa, per cui dobbiamo... prego. Sì, allora rapidamente Nicolà ci ha raccontato in effetti quali sono le missioni che la Sorbona si sta dando in questo settore. Prima di tutto, ovviamente, tutto il cambiamento dell'illuminazione attraverso l'uso di lampadine a basso consumo, poi il raccordo dell'università stessa alla rete di riscaldamento urbano con energie rinnovabili, e naturalmente anche la formazione, l'apertura di corsi universitari per parlare, voi avete degli studenti lì con voi, per formare le prossime generazioni alla gestione di queste problematiche. E poi ci ha parlato dell'iniziativa del governo, perché oggi le università francesi, così come anche i musei, hanno delle persone amministrative che si occupano dello sviluppo proprio della transizione energetica, la gestione della transizione energetica, e diventerà sempre più importante. Grazie mille a Parigi, grazie a Paola Gianotti per questa lunga corsa, grazie a Monsieur Conry, grazie a Domenico Viscardi. E adesso, con grande emozione, caro Cirri, andiamo nella casa della Repubblica, perché collegata con noi dal Palazzo del Quirinale, dalla Piazza del Quirinale, la quirinalista di Rai News, Federica Mango. Buonasera e grazie mille di essere con noi. Buonasera, buonasera dalla piazza del Quirinale, completamente avvolta dal buio, lo vedete alle mie spalle, solo i lampioni della strada accesi di fronte alla facciata della Presidenza della Repubblica e a sinistra, alla mia sinistra, alla facciata della Corte Costituzionale. Sono i due palazzi tra i più rappresentativi della nostra Repubblica, ma sono in buona compagnia perché c'è anche la Corte dei Conti che ha spento le luci, il Senato, la Camera dei Deputati, naturalmente Palazzo Chigi, ma siccome questa è una manifestazione, lo state raccontando, senza confini, anche ricordiamo le istituzioni europee, Bruxelles, la sede del Parlamento europeo a Strasburgo. Allora, questa è una tradizione, lo spegnimento delle luci per l'adesione alla campagna Mi illumino di meno, lanciata da voi 20 anni fa, che dura fin dal Settennati di Napoletano, ma al quale tradizione, alla quale impegno, alla quale il Presidente Mattarella ha aderito davvero con grande impegno e significato, perché la cultura della sostenibilità ambientale è uno dei punti sui quali il Presidente Mattarella ormai da molto tempo insiste parecchio, insiste molto, l'ha fatto anche pochi giorni fa all'Università di Firenze, ricordando che la terra ha bisogno dell'impegno di tutti e non deve diventare uno spazio di conflitti, deve diventare uno spazio di collaborazione, perché, e questo è l'altro tema molto caro al Presidente della Repubblica, quello che dobbiamo fare è lasciare questo pianeta migliore per le future generazioni, i giovani, e quindi la cura dell'ambiente per loro, per il loro futuro, è un altro dei punti chiave. Naturalmente il Presidente della Repubblica, che il scorso anno già aveva parlato di questo, indicando la vostra campagna come quella che sottolinea la necessità di un gesto di responsabilità, anche un piccolo gesto di responsabilità da parte di tutti noi, è l'altra parola chiave, la responsabilità che ci deve unire tutti. E la sua è poi un'adesione davvero personale, perché vi ha da poco conferito, diciamo, una medaglia, una sua medaglia di rappresentanza, è proprio lui. A tutti. È lui che ve l'ha consegnata. Grazie Federica Mango. A voi, alla trasmissione, all'iniziativa della RAI, porta la sua firma, quindi è proprio una sua medaglia di rappresentanza che riconosce questo impegno. Infine c'è un altro tema che è importante, il fatto che attraverso il piccolo gesto che però facciamo tutti riesce a passare qualcosa di più importante, il pensare agli altri, quindi la solidarietà. Dunque, vedete, tanti sono i valori che si riuniscono intorno a quello che è un piccolo gesto per il risparmio energetico. Poi naturalmente ci sono i temi politici, c'è il tema della necessità di rendere più efficiente tutti i nostri palazzi, a cominciare da quelli delle istituzioni e della politica. Per intanto ci prendiamo, grazie Federica Mango, l'emozione di vedere il Quirinale che si spegne per un'iniziativa della RAI, della radio, del servizio pubblico. E dobbiamo collegarci anche con RAI News 24, che con noi ha fatto molto in questa giornata, e c'è Giancarlo Usai di In un'ora che ci teneva a salutarci, o perlomeno dovrebbe esserci. C'è dal buio. No, in una penombra meravigliosa. Ma sei bellissimo, un'icona sexy. Ho lasciato soltanto questa luce accesa per salutarvi, proprio perché anche noi andiamo sul... È bello, sullo spegnimento dello studio, poi in qualche modo dobbiamo continuare ad andare in onda, perché In un'ora è una trasmissione che fa un po' il punto della giornata. Spero di essere bravo come Andrea Bettini oggi pomeriggio a spegnere questa luce. Vabbè, la spengo dopo che vi avrò salutato. Intanto grazie ancora per averci incluso in questa iniziativa. Ecco, adesso possiamo riprendere anche noi il nostro racconto. A voi. Grazie mille a Giancarlo Usai. Abbiamo fatto una mezz'ora di speciale insieme a Paolo Maggioni questa sera, questo pomeriggio, proprio su Rai News, e quindi grazie anche a Federica Mango. La medaglia è arrivata nelle mani della nostra direttrice Simona Sala, che l'ha portata da Roma. La vedremo, essere state qui su Rai 2 con noi e su Radio 2, la vedete sul canale digitale terrestre. Certamente, 202, certamente. Te la faremo vedere. Se io non ho perso completamente la Trebisonda, che è molto probabile, dovrebbe esserci, siamo a livello istituzionale molto alto. Il gruppo. Non era previsto il Senato, cioè, è stato Yama, sono sono già passati al Senato. Va bene, cambiamento istituzionale. Sono già la terza carica dello Stato. Satoyama, ve li presentiamo in radio, li conoscete benissimo, il pubblico televisivo. Loro sono un gruppo che fanno della musica ambientale, nel senso che cantano la bellezza e suonano la bellezza del pianeta, ma soprattutto fanno scelte di mobilità sostenibile. Hanno tutto un progetto che poi ve lo andate a ascoltare. Noi ve ne diamo un cicinin. Ci mancherebbe. Voi hanno un sito meraviglioso. Il Senato dopo, adesso Satoyama, da non credere. Satoyama live qui a Rai 2. Sono le 19:15 e qui a Milano ci sono tre palazzi, ve li raccontiamo, sono tre palazzi nuovi, sono i grattacieli di City Life, rappresentano un po', diciamo, la città vista dall'alto e eccoli qui, li vediamo in diretta, sono PwC, Generali e Allianz, che ogni anno aderiscono a Millumino di meno, spegnendo quello che posso dire iconico su Rai 2. Lo ha detto Zambotti, iconico, dovrebbero spegnersi a momenti. Li Satoyama, avete un sottofondo spegnimento di grattacieli milanesi? Hanno tutto loro. Eccolo qua. Si stanno spegnendo. Veloci ragazzi, perché si sta spegnendo. Ecco. I milanesi li chiamano lo storto, il dritto e altre cose irripetibili, ma sono... No, vabbè, si può dire il curvo. Il curvo, esattamente. Qual è rimasto ancora acceso? Forse Spento. Anche City Life si è spento e grazie alla dolcezza dei Satoyama. E poi, ve l'abbiamo raccontato, sono davvero decine e decine e decine le piazze italiane, i comuni, le città, sono molto importanti nella transizione energetica, sono il luogo un pochino più inquinante, ma sono lì anche dove si può fare la differenza. E allora c'è una città in particolare che ha preso delle scelte molto coraggiose, complesse, e ci piace averli con noi in questa festa di Millumino di meno. Andiamo a Bologna, nella città a 30 all'ora, collegato con noi, lo ringraziamo, il giornalista della TGR Nicola Zanarini. Buonasera. Buonasera Sara, buonasera ai telespettatori e ai radioascoltatori di Caterpillar. Bologna, città 30, Bologna città molto vicina alla sostenibilità ambientale, e appunto da un mese in questa città, in quasi tutta la rete stradale urbana, si va al massimo ai 30 all'ora. Con noi c'è il sindaco Matteo Lepper, l'assessora Valentina Orioli alla nuova mobilità. Partiamo dal sindaco. Sindaco, un primo bilancio di questo mese, ci sono state tante polemiche, però anche vediamo che la gente si sta adeguando, insomma, a questa novità abbastanza rivoluzionaria. Sì, devo dire i bolognesi vanno ringraziati perché stanno rispettando il limite dei 30 in gran parte, quindi già questa è una grande prova. E in questo mese abbiamo ridotto gli incidenti stradali di oltre il 15%, in particolare gli investimenti dei pedoni meno 25%, e risultati attorno al 20% in meno anche dei feriti, e in particolare la gravità dei feriti. Questo credo sia molto, molto importante, è una buona traccia, faremo un bilancio più consolidato fra 6 mesi, però significa che Bologna sta andando nella direzione giusta. Nicola Zanarini, allora passiamo in direzione dell'assessora. Nicola, ci senti? Solo perché, per farvi vedere, per noi Bologna è collegata a Londra, perché sono due città che hanno fatto delle scelte molto coraggiose sulla gestione dei centri storici, e quindi tu non lo sai, voi non lo sapete, il sindaco e l'assessora, ma alla vostra destra c'è anche collegata l'ambasciata italiana a Londra. Restate con noi, Bologna, e ci colleghiamo un attimo solo velocemente anche con il corrispondente Rai da Londra, Marco Varvello, che ha un ospite molto importante. Buonasera Marco. Buonasera. Eccoci da Londra, siamo proprio davanti all'ambasciata italiana, vedete le bandiere italiane ed europee, siamo con l'ambasciatore Inigo Lambertini, perché l'ambasciata italiana aderisce a questa iniziativa. Bisogna anche dire che siete sempre stati a Londra dei precursori sul risparmio energetico. Sì, grazie, effettivamente sono molto contento con Londra, che poi torniamo, tornando a noi. L'ambasciata italiana a Londra partecipa perché ho personalmente partecipato a quello che si faceva alla Farnesina negli anni scorsi. È importante in una città dove la sensibilità sull'uso energetico è molto alta, come in tutto il paese, tanto è vero che in realtà questo è solo un capitolo di una storia che è già avviata da da tempo, da 5 anni. La nostra è una delle prime ambasciate della rete che ha installato gli strumenti per i pannelli per l'energia solare. Abbiamo una gestione dell'ambasciata completamente plastic free, non usiamo più la plastica laddove questa non può essere riciclata. Abbiamo le penne che arrivano da uso riciclato del materiale. Abbiamo una raccolta, un compostaggio dei rifiuti tra i più alti dell'intera area, ci è stato riconosciuto, e quello che non si può riciclare lo diamo a produzioni che producono energia, quindi certo. È un capitolo importante di una storia che già da tempo va avanti qui a Londra. A questo punto non rimane che dare il segnale e spegnere le luci, punto. Aderire finalmente al numero di meno, e quindi vediamo allora, ecco qua, avete visto, anche l'ambasciata di Londra ha spento le luci. Devo solo aggiungere, oltre a questa adesione, c'è anche quella delle Coop britanniche, sempre parte del gruppo cooperative. Hanno 400 punti vendita in 16 contee inglesi. Questo molto importante in un paese che è sempre stato in prima fila sull'energia verde, risparmio energetico, ultimamente un po' meno, stanno facendo un po' marcia indietro. A te la linea. Grazie a Marco Barbello, grazie all'ambasciatore Lambertini. Facciamo in tempo, sì, torniamo a Bologna. Anche lì Piazza Maggiore, un po' la Londra italiana. Nicola Zanarini, scusateci, ma si spegneva anche l'ambasciata. Sindaco Lepore, assessore Rioli, Nicola Zanarini, grazie. Cosa si è spenta a Piazza Maggiore grazie di questa adesione? Eh sì, col collegamento con Londra ci siamo persi lo spegnimento delle luci sul Nettuno, il gigante qua di Bologna, e sul Palazzo Renzo, però insomma noi le abbiamo riprese, le faremo vedere quantomeno nella regionale, ma torniamo a Bologna Città 30. Invece Palazzo da Curzio resta con le luci accese per questioni di sicurezza, come ci spiegavano appunto dalla giunta comunale, e qua appunto l'assessora Valentina Orioli alla nuova mobilità, una nuova mobilità che sta andando veloce, Città 30 lenta, ma la rivoluzione sta andando veloce e i cittadini sembrano aver capito, anche perché i dati sono confortanti. Sì, i cittadini hanno capito, i dati sono confortanti, le polemiche si stanno anche un po' affievolendo, mentre noi stiamo realizzando molte trasformazioni, non soltanto per la Città 30, per rendere le strade più sicure per ciclisti e pedoni e un po' più lente e aperte alla convivenza, ma anche molte trasformazioni sul trasporto pubblico, in particolare con il cantiere del tram. Quindi la mobilità cambierà la città. Sì, il tram che sta appunto un po' provocando qualche disagio, ma ne vale la pena, sindaco, così come ne vale la pena tutte le polemiche anche con il ministero, con Roma, per una rivoluzione che non poteva essere morbidissima. Ma noi abbiamo la sfida dei fondi europei, del PNRR. Il tram toglierà dalle nostre strade 500.000 tonnellate di CO2, quindi una grande riduzione di inquinamento e di emissioni. Noi siamo impegnati a realizzare queste cose entro il mandato, entro il 2026. Noi vogliamo lavorare col governo anche sulla sicurezza stradale, quindi a noi le polemiche non interessano, anche perché sappiamo che finita la campagna elettorale di molte di queste cose non si parlerà più, mentre noi continueremo ad essere qua a fare i nostri cantieri, e siamo convinti che quando avremo finito Bologna sarà ancora più bella e ancora più sostenibile, e soprattutto avremo salvato diverse vite, ridotto molti incidenti, ridotto anche le file al pronto soccorso, perché purtroppo ogni anno a Bologna ci sono 3.000 incidenti, e ricordiamoci che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i ragazzi in Italia sotto i 30 anni. Grazie mille a Bologna. Grazie a Valentina Orioli. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie alla FIAB. Spalle ci sono anche i ciclisti, esatto, della FIAB. Esatto. Volevo citare soltanto i ciclisti della FIAB Bologna, che stanno per organizzare una bella biciclettata, insomma, all'insegna della sostenibilità. E poi anche Angelo Gorizzizzo, che è il mio collega della RAI di Bologna, che ha effettuato queste immagini. Grazie allora a tutti e restituiamo. Grazie a voi, grazie alla RAI di Bologna. Sì, sì. Esatto, molte sedi della RAI si sono spente, si stanno spegnendo, contano gli spegnimenti, e qui siamo, Zambotti, brano musicale. Un po' di Satoyama, perché andiamo verso un momento un pochino più spirituale, quindi Satoyama, aiutateci. Avete cose spirituali? ne hanno proprio a randello. Applauso spontaneo. Satoyama live alle 19:26. minuti, siamo su Radio 2, siamo in radio, siamo sul canale 202 del Digitale Terrestre, siamo su Rai 2 per raccontare la 20ª edizione di Mi Illumino di Meno. Ci sono le future generazioni che si fanno un altro applauso in pubblico, perché come dice Cirri, in TV ci si applaude. Poi lo avete visto, prima abbiamo visto le immagini bellissime dello spegnimento, prima del Senato, poi del Ministero della Difesa e poi Palazzo Chigi, e poi arriveranno chissà presto anche le immagini di tutte le sedi del Parlamento europeo che stanno spegnendo. L'ambasciata americana a Roma ci ha mandato un video, l'Istituto Italiano di Tecnologia, pieno di studenti che arrivano da tutto il mondo e ci raccontano la loro adesione a Mi Illumino di Meno. Continuate a farci sapere cosa state facendo con l'hashtag Mi Illumino di Meno. E poi un pezzo di questo cambiamento si chiamerà sempre di più CER, comunità energetiche rinnovabili. Che cosa sono? Ce lo facciamo raccontare da un uomo che ha detto alle sue parrocchie: dovete fare comunità facendo anche una comunità energetica. Lui è il vescovo della diocesi di Treviso, Michele Tomasi. Monsignore, buonasera. Buonasera a voi, buon 20esimo compleanno. Grazie Vescovo Tomasi, grazie, buonasera. Grazie. Senta, che cosa ha detto alle sue 200 e passa parrocchie? Perché bisogna fare una comunità energetica rinnovabile? Perché abbiamo bisogno di salvaguardare il creato, come ci insegna Papa Francesco, ce l'ha insegnato nella Laudato Si nel 2015. La Chiesa italiana ha preso questa idea dalla Settimana Sociale di Taranto del 2021, ha lanciato l'idea delle comunità energetiche rinnovabili, e perché possiamo fare questo risparmio e questo passaggio di transizione ecologica aiutandoci, costruendo comunità, facendo in modo di essere produttori e consumatori istantanei, coinvolgendo le parrocchie, le famiglie, le comunità, magari gli enti pubblici, alcune imprese, per aiutare anche quelli che sono più in difficoltà, magari per pagare le bollette di quelli che fanno più fatica ad arrivare a farlo a fine mese. Mentre lei ci dice, Monsignor Tommasi, sono andate le immagini di una cosa che è successa, ci ha molto colpito, nella cattedrale di Pesaro. Una messa per Mi Illumino di Meno a lume di candela, una messa Laudato Si. Monsignor Tomasi, ma lei ha anche una laurea alla Bocconi in economia? Beh sì, nessuno è perfetto a questo mondo. Non dica poi... così, che ci sono qui gli studenti dell'Università Bocconi che magari vedono in lei una scelta futura di vita. Ne sono strafelice e penso di avere imparato a vedere il mondo in un certo modo con quegli studi. Poi ho pensato di metterli a disposizione di un'altra missione e passo per passo sono arrivato qui a Treviso. Molto la ringraziamo, Monsignor Tomasi, grazie. Sappiamo che a Treviso, per Mi Illumino di Meno, gli amici di Legambiente stanno facendo una passeggiata in cui chiedono anche pace in Palestina, e tutto si tiene perché siamo figli della stessa terra. Grazie mille davvero al Vescovo di Treviso, perché le comunità energetiche sono state il centro anche della 19ª, a questo punto, edizione di Mi Illumino di Meno, ma proprio adesso si stanno sviluppando e quindi sono aperte, lo diciamo, a tutte le fedi le comunità energetiche, insomma si possono fare in parrocchia, anche da laici, ed è un modo di fare comunità energetica rinnovabile e limitare lo spreco energetico. E poi sono le 19:30, un po' l'ora in cui si stanno scatenando i tanti aperitivi a lume di candela. Spiace passare all'alcol dopo aver parlato col vescovo, però diciamo l'orario è questo qua, l'orario è questo qui. E allora un luogo che ci permette di raccontare tutte le grandi cene a lume di candela che stanno avvenendo. Per esempio Marta si è ricongiunta con la sua compagna in Spagna e cenano a lume di candela andando a comprare biciclette per le loro biciclette. Poi una cena familiare a Roma, ha scritto Francesca. Dario dall'Arizona sta cenando a lume di candela con un altro fuso orario con la fidanzata, ma noi andiamo alla British School at Rome, è una bellissima accademia piena di artisti in residenza. Anche lì cena a lume di candela per Mi Illumino di Meno la direttrice Abigail Brandin. Buonasera. Buonasera a tutti. Direttrice... Eccomi a lume di candela. Bellissima direttrice. poi parliamo dei valori che ci sono dietro questo gesto. Io comincerei col menù, però, perché è una certa ora e cominciamo ad aver fame. Che cosa mangerete a Lume di Candela? Cosa mangiamo a Lume di Candela? È una buonissima domanda. Mangiamo un risotto, che il nostro chef Luca fa un risotto fantastico, è proprio la sua specialità. Però siccome siamo inglesi, mangiamo alle 7:30. Ah, ecco. Ma lo facciamo anche noi, insomma. State per mettervi a tavola. Ci racconta chi ci sarà a questa cena, chi sono, diciamo, le persone che frequentano la British School at Rome, con chi cena direttrice questa sera? Allora, noi siamo una comunità di ricercatori, di artisti, di architetti, giovani e meno giovani, che vengono da tutto il Regno Unito e anche dal Commonwealth, perché noi abbiamo un ambito molto, molto largo per ragioni storici, e una parte molto importante della nostra comunità è il mangiare insieme. E allora a pranzo, a cena, anche a prima colazione, noi provvediamo a dare il cibo, e loro devono solo pensare a cose più alte. È bellissimo. A proposito di cose belle, direttrice, giungono richieste sulla sua collana, dicono che sia bellissima. A qualche indicazione artigianale, un'idea di prezzo per amici della radio, diciamo, una bellissima collana fatta di non saprei dirlo di cosa, lo dice la direttrice. Questo è ambro, però crudo, in forma cruda. Apparteneva a mia nonna in California, l'ha comprato nel 900 in California. Solo questo vi posso dire. È bellissimo, no? È un pezzo del futuro che arriva da lontano, che coltiva la nostra bellezza. Direttrice, grazie. Grazie mille. Intanto, mentre lei parla, sono arrivati tutti gli ospiti che adesso battono le mani per il cibo, e quindi buona cena Lume di Candela. Eccoli lì, grazie. Buona cena Lume di Candela anche al Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Cosenza, perché oltre alla British School anche loro stanno per mangiare a Lume di Candela al ristorante Sartago di Ferrandina, siamo in provincia di Matera, e anche gli ecovolontari di Collegno, queste le prime che mi vengono in mente. Il Senato ha twittato la sua adesione a Millumino di Meno. Ha fatto il Senato un video bellissimo con l'accensione di una candela davanti all'immagine di Millumino di Meno. Cercatela sui social. Noi stiamo andando verso la fine di questa puntata, e chiedo a Satoyama un brano veramente trionfale per questi 20 anni di Millumino di Meno. Avete roba trionfale? Ne hanno Zambotti, li ho visti un po' perplessi, ma sembra che ne abbiano. Satoyama live, applaudito dalle generazioni future, in diretta su Radio 2 e anche su Rai 2. Zambotti? L'abbiamo fatto, le abbiamo invitate le future generazioni, perché sono quelle che un po' qualche anno fa, anche con gli scioperi per il clima, ci hanno un po' fatto capire che poi il pianeta lo ereditano loro, e quindi va trattato un pochino meglio. Ma tutto questo è anche cultura, è formazione, è futuro, e sono venuti a trovarci delle giovani che stanno facendo un master che educa alla sostenibilità, che dà strumenti per reagire al cambiamento climatico. Si fa a Pisa. Buonasera, posso chiedere di alzarti? Tu Buonasera. Sei? Claudia Pisutto. Claudia Pisutto, cosa si impara a questo master? Intanto grazie dell'adesione, voi avete fatto un progetto bellissimo per aderire a Millumino di Meno. Allora, al Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico si studia la sostenibilità a 360 gradi. Si parte dagli obiettivi dell'Agenda 2030 e poi si affrontano tutte le problematiche relative al cambiamento climatico, sino ad arrivare al report di sostenibilità. Quindi ci sono dei moduli teorici e dei moduli pratici che aiutano a poter comprendere al meglio come contribuire alla sostenibilità, e quindi a limitare i danni del cambiamento climatico. Grazie mille. Studio sostenibile, però tocca studiare, cioè non è che sia. Sì. Tocca studiare, no? Sì, perché? È un master completamente online, aperto a studenti di tutta l'età. Da tutta Italia, e quest'anno ci è alla terza edizione, ci sono anche studenti da ogni parte del mondo. E quindi bello, ditelo bello ai vostri genitori: io voglio studiare per salvare il pianeta. Si può fare. E intanto ecco anche le adesioni, le vedete, delle radio, dei servizi. servizi pubblici europei, perché non siamo soli, anche noi ci siamo impegnati a fare grandi alleanze internazionali, come abbiamo chiesto di fare a voi ascoltatori e ascoltatrici. E allora, atto finale di questa puntata che celebra i 20 anni di Millumino di Meno, ringraziamento soprattutto agli ascoltatori che insieme a noi hanno fatto in 20 anni appunto tante cose, dimostrando che si può fare qualsiasi cosa con uno spegnimento simbolico che ci fa molto molto piacere raccontare in diretta. Ce lo racconta la direttrice di Radio 2, è qui con noi la direttrice Simona Sala, benvenuta, che porta un buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera e complimenti. Grazie. Buonasera e complimenti, caro Cirri. Grazie direttrice, vuole uno stacco trionfante per la direttrice? Le nostre carriere dipendono da questo stacco. 1, 2, 3 A me è piaciuto, È stato bello, lo stacco è stato bello, anche tutto quello che abbiamo visto. Devo dire grazie a voi. E vi porto questa. Eccola. La consegno da Roma, sono venuta apposta praticamente per consegnare a voi. Questa che è la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per il ventennale di Millumino di Meno. Voi sapete meglio di me che il Capo dello Stato ci è stato sempre vicino, vi è stato sempre vicino, e quindi questa è un'ulteriore dimostrazione. Però come, ragazzi, è vostra questa. No, come quindi, si fa con i premi, è vostra. Noi la prendiamo, la teniamo, io la tengo un'ora, poi Zambosi, e poi la facciamo girare fra le centinaia di migliaia di ascoltatori che hanno fatto insieme a noi. Infatti è proprio questo che è bellissimo. Allora, io intanto per chiarire, io sono arrivata a Radio 2 a giugno, questa iniziativa compie 20 anni, quindi io ho... usufruito di questa iniziativa, di questa gloria, tra virgolette. Loro l'hanno costruita dal basso, piccola, e questo è veramente un bel segnale per le giovani generazioni. Cioè, se ci credi in una cosa e ci provi, anche se sei piccolo, e riesci a costruire una comunità, questa cosa può avere successo e può portare un seme positivo per il mondo. Costruire una comunità è un po' quello che abbiamo sempre cercato di fare, crediamo sia compito della radio, del servizio pubblico. Perché poi la radio la fa, forse è più flessibile, raggiunge più anche la provincia, raggiunge libero, sì, forse, sì, assolutamente. Diciamo in TV, però insomma con rispetto. E voi avete costruito, e io godo di questo essendo la direttrice di Radio 2, voi avete costruito negli anni una comunità bellissima, perché è una comunità che appunto ha questi valori, quindi la partecipazione, che è molto rara, la partecipazione, i valori, i diritti, la pace e naturalmente il risparmio energetico. Grazie direttrice, noi cominciamo a collegarci verso l'immagine della torre della sede RAI di Milano, perché siamo in diretta dalla sede RAI. Direttrice, non è l'unica che si spegnerà, ma no. Intanto si anche noi Viale Mazzini, esatto, il cavallo, esatto. Si spengono tante sedi della RAI, quindi insomma tutta la RAI si spegne, e lo facciamo anche noi simbolicamente, un piccolo buio qui in studio, ringraziandovi di essere stati con noi per questi 20 anni di Millumino di Meno. Grazie alla RAI, grazie a chi ci ha seguito su RAI 2 per Radio 2. Noi torniamo in onda lunedì, come sempre, alle 18, un po' più vecchi, un po' più illuminati, un po' più qualcosa che adesso non mi viene in mente. Ho la medaglia. Grazie. Antenna.